in primo piano. Buongiorno, sono Dennis Redmond. Mi dicono che sono il primo o uno dei primi stranieri che avrà l'onore di leggervi i vostri giornali italiani, perciò mi perdonerete qualche inciampo sulla lingua di Dante. E per aprire la nostra rassegna del lunedì vorrei farvi così una rapida carrellata di quello che c'è sui principali 4-5 giornali, poi andiamo all'approfondimento. I tre o quattro giornali principali si dividono nel loro modo di analizzare l'attualità. Il Corriere della Sera, per esempio, si concentra sull'appello di Napolitano che chiedeva un clima più civile e sulla reazione del mondo politico. Ha un titolo sia l'appello di Napolitano, favorevoli PDL e PD, ma Di Pietro non ci sta. Poi c'è una vignette molto sfiziosa di Gianelli, dove c'è Di Pietro che è salito su una palma e disse: fossi scemo, sono al 9% e non voglio scendere. E il presidente Napolitano che gli dice: vieni giù, c'è bisogno di una tregua. E il commento del Corriere della Sera è sotto la penna di Massimo Franco, che parla della pedagogia della normalità. In pratica parla sulle prospettive di questa tregua e se veramente si può fare o no. Quella che Napolitano ha detta è una sorta di pedagogia della normalità, dice Massimo Franco sul Corriere della Sera, come esercizio e sforzo quotidiano. Si tratta, dice Massimo Franco, di una proposta insidiosa per chi ha sognato la spallata contro il governo, magari sulle macerie del summit abruzzese. E soprattutto per quanti nell'opposizione ritengono che il crollo di Silvio Berlusconi sia una prospettiva non solo da auspicare ma da provocare con ogni mezzo. E questo è la principale preoccupazione del Corriere della Sera. Invece Repubblica si concentra sullo scontro sullo scudo fiscale e sul ruolo dell'opposizione che dice che questo sarebbe un condono incivile. Come sapete, forse Repubblica ha scovato questo piano. Dentro all'interno ha un dossier interessante su il merito o no dei vari condoni che sono stati fatti in altri paesi, negli Stati Uniti, in Sudafrica, Russia, Germania, Irlanda, eccetera, e conclude in un articolo di autore Livini che si sono recuperati 5 miliardi di tasse in 11 paesi, ma la lotta contro l'evasione non potrà essere coronata di successo se non si risolve il segreto bancario e il problema dei capitali depositati all'estero. Poi c'è anche un commento di Massimo Giannini che parla del ministro Tremonti, lo chiama il dottor Jekyll e Mr. Hyde, come cito Massimo Giannini, come l'eroe di Stevenson, Giulio Tremonti vive due esistenze parallele. Di giorno il dottor Jekyll annuncia mai più condoni e scrive le 12 tavole della legge morale che deve dominare la finanza planetaria. Di notte Mr. Hyde prepara uno scudo che consente agli evasori di rimpatriare capitale con un gigantesco salvacondotto tributario, penale e amministrativo. Questo perciò è la concentrazione principale di Repubblica, anche se accenna a due altri temi che sono la prima pagina della Stampa, che sempre ha un approccio un po' diverso. Il primo è il titolo della Stampa è su Beppe Grillo che si proclama uno dei il quarto candidato delle primarie del PD. È l'unico giornale che ha un'intervista con Beppe Grillo e potrebbe anche essere interessante leggerla perché gli chiede la giornalista Alessandra Pieracci a Genova: ma quali sono i suoi programmi? Risponde Beppe Grillo: una legge di iniziativa popolare contro il nucleare appena riproposto, energia rinnovabile, acqua pubblica, welfare e mobilità ecocompatibile, wifi gratuito, no ai inceneritori, il massimo di 2 legislature per parlamentare e il Parlamento pulito grazie alle leggi di iniziativa popolare già presentata, di cui non si è saputo più nulla. Faremo tutto nel rispetto della Costituzione. Questo su pagina 9 della stampa. E poi c'è un commento di Riccardo Barenghi che dice che la storia si ripete in farsa e comincia a fare delle ironie sul fatto che tutta l'estate, adesso che c'è un comico che si presenta al PD, ci saranno tante altre comiche durante tutta l'estate. Un articolo sfizioso da leggere. L'altro titolo della stampa, un po' più in evidenza certamente di Repubblica e il Corriere, che non lo porta in prima pagina, è la faccenda di Dick Cheney. Questa faccenda francamente è stata per adesso un po' sottovalutata dai giornali italiani, perché va in prima pagina sull'Herald Tribune e altri giornali e siti web internazionali. In pratica, di che si tratta? Dick Cheney, il vicepresidente all'epoca di George Bush, avrebbe ordinato alla CIA di nascondere al Congresso un programma antiterrorismo top secret. Il ministro della giustizia di Obama, dell'amministrazione Obama, potrebbe presto aprire un'inchiesta penale sulle torture contro i prigionieri della parte dell'agente della CIA. Qual era il problema? Il problema è che l'approccio di Cheney era di tenere segreto dalla parte della Casa Bianca una specie di operazione parallele. E su questo, queste due delicate vicende minacciano anche l'unità dei propri democratici dentro all'amministrazione Obama. E non solo questo, ma minacciano anche di togliere il focus dell'amministrazione Obama dell'economia su una specie di disquisizione e argomento interno all'amministrazione Obama. La Repubblica ha un articolo su questa faccenda di Arturo Zampaglione da New York che ricapitola un po' di che cosa si tratta e perché l'Obama non vuole che ci sia un dibattito che potrebbe essere lacerante. Guardiamo al futuro, non al passato, ma tanti democratici non seguono Barack. Questo problema minaccia praticamente di paralizzare il Congresso americano e di, in un certo senso, paralizzare le nuove iniziative che ci sono dell'amministrazione nell'economia e anche nel Medio Oriente. La Repubblica anche parla della apertura alla Siria e molti giornali lo portano in prima pagina, perlomeno a livello internazionale. E quanto a un altro giornale che vi faccio, sulla quale penso che è interessante fermarsi, è Il Giornale. Il Giornale ha una specie di agenda anti-britannica, perché in prima pagina naturalmente fa accenno sull'astensione di Di Pietro a questo appello del capo dello Stato. Dice in un titolo Di Pietro resta incivile, e a dispetto di Napolitano che chiede un clima politico più civile. E poi per di più scende in campo Beppe Grillo: io alle primarie del PD, questa sinistra va rifondata. Ma l'agenda anti-inglese del giornale si materializza anche in un commento di prima pagina di Maria Giovanna Maglie, che dice: cari inglesi, ormai vi abbiamo battuti in tutto. e dentro si guarda, si vuole ridere e sorridere un po', c'è un confronto tra la Bretagna, che non è più molto grande, sulla pagina 7, e in tutti i campi si fa una comparazione tra Italia e Gran Bretagna, politica tra collo di Brown, in crisi il modello Labour, in quanto in Italia dopo il G8 cresce l'autorevolezza dell'Italia, economia, la City fa crack e falliscono anche le banche, invece in Italia lo Stato non ha dovuto salvare alcun istituto, l'industria, nessun grande marchio è più inglese, in Italia il modello Marchion, la Fiat vince nel mondo, criminalità, alta criminalità in Inghilterra, dopo la linea dura in Italia la linea dura paga, i delitti sono in calo, informazione naturalmente, qui il giornale di proprietà di fratello del primo ministro parla del scandalo dopo scandalo, una credibilità minata, e i giornali di proprietà Murdoch che sono nei guai per lo scandalo delle spie, dice il giornale, e noi almeno non siamo travolti dai scandali. Eppure nel calcio gli inventori del calcio, i britannici, puntano tutto su un italiano, e c'è un'intervista di Carlo Ancelotti, dice: qui a Londra si sono arresi, hanno capito che siamo migliori anche nel calcio, e poi si sottolinea che dopo tutto gli italiani sono campioni del mondo. In questa area più leggera segnalo anche un po' di inchieste molto interessanti che i giornali del lunedì hanno, sulla pagina 25, per quelli che sono business travelers, potresti leggere nella Repubblica un'inchiesta sui aeroporti italiani, la grande fuga, la crisi riporta a terra i viaggiatori, tra gennaio e maggio 4 milioni e mezzo nei scali nazionali, il futuro sarà sempre low cost all'insegna di offerte diversificate, intanto il presente calo evidenziato dai numeri, inchiesta di Giovanni Parente che mostra che da 48 milioni adesso eravamo a 52 milioni con i passeggeri nei scali italiani da gennaio a marzo. Segnalo anche in chiusura l'inaugurazione della più grande nave costruita da un armatore europeo che si chiama La Splendida, è stata inaugurata a Barcellona dall'armatore a ponte italiano, 18 ponti, 3.000 passeggeri, 1.500 persone come equipaggio. Adesso vi do la linea per il traffico e ci risentiamo un po' dopo. In primo piano. Eccomi qua di ritorno, sono Dennis Redmond, sono qua questa settimana come primo straniero a farvi una rassegna stampa un po' visto da occhi esterni, perciò vi do un'angolatura un po' da straniero. Vi segnalo che abbiamo visto sulle agenzie che ci saranno le elezioni probabili in Giappone il 30 agosto. C'è stato una riunione oggi a Tokyo tra i vari partiti politici e il premier Taro Aso, che è tornato come sapete dal G8, ha deciso di indire l'elezione per il rinnovo della Camera Bassa per il 30 agosto. Questo è dopo una sonora disfatta dal LDP, il Partito Liberal Democratico, all'elezione a Tokyo, e perciò saremo in campagna elettorale in Giappone durante l'estate, con tutto quello che implica anche per quello che succede nel mondo politico. Io in questa seconda parte vi voglio far guardare un po' gli approfondimenti interessanti di tutti i giornali del lunedì, vi segnalerei sulla pagina 8 un interessante articolo di Oscar Arias, il premio Nobel della pace dell'87 e il presidente del Costa Rica, che sta tentando di riportare questa crisi nell'Honduras a metà tra operetta e golpe, sta tentando di fare il mediatore. Arias dice che c'è stato un tempo nella storia delle Americhe in cui le armi e gli eserciti erano associati alla libertà e all'indipendenza, oltre che a nuove opportunità per i nostri popoli, un tempo in cui prosperavano gli eserciti di liberazione. Oggi però abbiamo assistito a troppo episodi di tirannia, violazione di diritti umani, instabilità politica, episodi tracciati nella polvere dai scarponi dei nostri militari. E questo è il caso honduregno, dice Arias, è un pesante appello alle profonde riforme sociali e istituzionali che sono state rimandate da troppo tempo. Pagina 8 del Corriere. Poi un altro articolo molto interessante è un focus sul successo della patente a punti. Il Corriere ha fatto un'inchiesta, ha trovato che l'effetto prudenza non è che ha funzionato perfettamente, interroga pure alcuni riformati o alcuni pentiti che sono stati pizzicati, come Renzo Martinelli, Deborah Salvalaggio e Giancarlo Fisichella, i cattivi della strada che diventano più ben disciplinati, e ha una serie di statistiche. Poi nella serie delle inchieste devo segnalare sul Sole 24 Ore un'interessante inchiesta che interesserà tutti quelli che seguono business su i brand italiani e che danno più customer satisfaction nell'osservatorio 2009, su pagina 15, prezzi, servizio e qualità, gli italiani promuovono viaggi e grande distribuzione. Perciò tre vari nomi della grande distribuzione, il proprio Sole 24 Ore sta in terza posizione in relazione alla soddisfazione delle aziende di servizio in Italia. Una classifica molto interessante con alcune aziende delle quali forse i nomi non sono neanche conosciuti al pubblico. Un'altra inchiesta poi, ve l'avevo già segnalata sul giornale, una comparazione tra l'Italia e la Gran Bretagna di Maria Giovanna Maglie. E poi andiamo ai supplementi di economia che interessano molto i nostri ascoltatori. Dalla parte di Repubblica c'è un'intervista interessantissima a Paolo Scaroni, che sapete che è amministratore delegato dell'ENI. Marco Panara gli chiede come mai c'è questo sale scende del petrolio, virgolettato da Scaroni: un anno fa $146 al barile, oggi poco più di 60, il prezzo del petrolio balla come un yo-yo impazzito. Paolo Scaroni, amministratore delegato dell'ENI, prima società italiana, 17esima mondiale del fatturato. Anche se guardiamo ai prezzi medi, le cose non vanno meglio. Siamo passati da circa $100 al barile del 2008 ai $50 al barile del primo semestre di quest'anno. È una cosa da approfondire certamente. E poi segnaliamo anche un'analisi sempre sul G8 i risultati veri del vertice dell'Aquila. Marcello Di Cecco dice che ci sono stati zero risposte nel comunicato finale, o perciò in quello che si chiama il sommario del presidente. Dice che in pratica tutte le differenze sono state vittime dalle priorità nazionali e l'unità solo di facciata dei leader del mondo. Malgrado le parole di solidarietà, mancano nei documenti finali cruciali. dei passaggi di accordo. E finalmente vi voglio dare un tema che ricorre nei giornali perché lunedì siamo sul leggero, Repubblica e molti altri giornali lo riportano o in prima pagina o nelle pagine interne. Si tratta di uno scoop che ha avuto il Sunday Times di Londra, che ha messo ieri la notizia in prima pagina su un nuovo manuale di educazione sessuale della National Health Service britannica. Dice la National Health Service: un orgasmo al giorno toglie il medico di torno. E questo parla della salute e del fatto che i consigli ai studenti del Ministero della Salute hanno creato una grande controversia in Inghilterra. Dennis Redmond vi saluta e vi do appuntamento a domani con la rassegna stampa visto dagli occhi di uno straniero.